sul meridiano di Milano, sono le 7:30 minuti primi. Non mi veniva meridiano, scusate. Buona giornata dall'Ariele e dalla squadra di Pane, Burro e Rock'n'Roll. E suona il telefono. Che giornataccia! Martedì 18 di dicembre. Stiamo perdendo di vista l'obiettivo, amici e amiche là fuori. Ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua. Tutta per tutta colpa di sto calendario 2008, l'anno della svolta. State parlando tutti di quello, invece no. Questa trasmissione ha un obiettivo sociale, etico. Occuparsi delle problematiche del Natale. Non perdiamolo di vista, questo obiettivo. Segnalatecele le vostre preoccupazioni, i vostri problemi, le vostre angosce. Lamentarsi a rock, ricordatevelo. 335-100-7777. Scusate, un piccolo sfogo per chi si fosse sintonizzato solo adesso. Era così, che la prima mezz'ora è stata talmente intensa che a me mi piglia l'emozione. Maybe sometimes then you don't, but leave your mind alone. Allman Brothers, ain't wasting time no more. Lentamente se ne va via il buio da Milano, arriva la luce, le solite cose che accadono tutti i giorni. fortuna che il lampione crepuscolare resta lì a vegliare sulle nostre teste. Buona giornata a tutti là fuori. Puntata 100. No, è andata la puntata, l'ho capito. Guarda, quando una puntata sta andando al macero, si capisce da subito. Quella di oggi proprio è gettata alle ortiche, ve lo dico. A voi, ma soprattutto alla redazione che mi guarda come per dire: no, Ariele, ce la possiamo ancora fare a riprendere le redini di sta trasmissione. No, si vede. Lo capisco dalla faccia di Frick quando entra in studio. Io proprio guardo. Allora, la redazione mi gira questa segnalazione per farvi capire come sto messo. Francesca saluta Pierino il fornaio di Sharbo City in provincia di Genova, grande appassionato di blues, degli Zeppelin e di Rock FM. Ma è provinciale fare una roba così! Dai! Poi si capisce che siamo una radio regionalotta e non un grosso network. E invece, la battaglia Davide contro Golia ce la siamo dimenticata? La nicchia vincerà! Lo abbiamo nascosto sotto come si dice quella roba che si mette a terra? Ditemelo. Il tappeto, ecco. 335 100 7777. Noi per voi abbiamo probabilmente il collegamento con la Lapponia, ci parla Babbo Natale in persona. Poi abbiamo nel reparto Frick e Ariel arrotondano per dicembre, il presepe vivente e Frick che fa Babbo Natale. Poi negli studi c'è in giro Francesco anche stamattina. E so cazzi. Francesco è il bambino Medal! Eh? Sì. Ieri mi ha telefonato tutto gasato perché un radioascoltatore l'ha riconosciuto. Ha detto: tu sei Francè! No, non si dice Zerbino, Saputello che mi ha iscritto via SMS, si dice tappeto. Comunque grazie anche per... Allora, auguri George Boy, 40 anche per te. Vegio, non bere poco. Alzarsi alle 4.30 e andare a lavorare in moto, una Guzzi, California. Mica cazzi, con 4 gradi è rock? O è solo da ricovero? Ciao TDC da Genova. No, è rock, caspita. Ciao Druga. Che ne dite per l'anno nuovo di creare 10 comandamenti per essere un buon rocchettaro? Lorenzo da Imola. Bella questa. Ma aspetta, io devo ringraziare Franz invece. Franz, guarda che tu sei messo bene, te lo dico proprio ufficialmente. Li sento io i talenti, li capisco. No, lui scrive a questo. Va bene per le patenti da vero rocker, ma gli attestati di vero amico di Ariel o di vero amico di Frick, quando li date? Quelli da mettere sul tavolino in salone, che quando un amico vede la foto dentro la cornice chiede: chi è quello? Io posso dire: niente, sono i miei più cari amici DJ. Pensaci, Ariele, questa è la svolta. Franz, tu sei bravo, cazzo. Questa è un'idea fichissima. E voi della redazione, sappiatelo, Franz non lo paghiamo come a voi, eppure scrive robe più fighe di quelle che dite voi. Facciamo 4 facciamo 4 conti in tasca, eh? Vabbè, dai. Spariamoci il bosco è meglio. Dancing in the dark, l'attestato di vero amico. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know what this is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for hire. Even if we're just dancing. We'll be right back. Questa stazione radiofonica risponde al nome di Rock FM e vanta l'ausilio prezioso di Roberto Fricantoni. Grazie maestro, non la ringrazieremo mai abbastanza per la sua presenza a questo microfono. Beh, sono io che ringrazio voi anche per il lauto stipendio di 5.000 euro a settimana. Lei è molto fortunato, lo sa? Io e Isacco quei 5.000 euro non li vedremo mai in un anno intero. Beh sì, anche perché... Ma l'abbiamo fatto per lei, per grazie. Tenercelo stretto. Grazie, grazie, grazie. E io non so come ringraziarvi. Saluto comunque tutti i radioascoltatori, anche le radioascoltatrici, sì. Soprattutto le radioascoltatrici, ma anche i radioascoltatori. Vogliamo far fruttare questo l'autostipendio che li entra in saccoccia con i no. compleanni di quest'oggi? No, la prego, no. Lo faccia, per noi, per Isacco, guardi che occhioni che ha. Allora, senta qua. Nasceva il 18 dicembre del 43 Keith Richards. No, non ci credo, è vero. Sì, il più grande riffettaro sì. del mondo. Dun, dun, storico dun, chitarrista dun, dei Rolling Stones dun, dun, dun, che quando non sa cosa fare si spacca la testa con delle noci di cocco. Esatto, che uomo. Oggi pensi, ha quasi 64 anni sì. e i suoi nipoti dicono: andiamo a vedere il nonno sul palco che insieme agli altri amichetti tutti pensionati sì. Fanno I can get no satisfaction. A quando i nipotini di Fricantoni? Non lo saprete mai. 1946 nasceva Steven Spielberg, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, di cui ricordiamo Lo Squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo. No, no, no, no. Dico bene? Ho detto una cazzata. Era il suono di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Tona, no, no. Potremmo parlare anche noi a suoni con i radioascoltatori, le va? Volentieri. Comincia subito. E.T. l'extraterrestre. E.T. telefono casa. E.T. telefono casa. E ma chiudiamo? Soprattutto con Schindler's List. Esatto. Una che storia. Non è quello degli ascensori. Infatti, la lista di Schindler, un capolavoro sulla Seconda Guerra Mondiale, in bianco e nero. Straordinario, va un bene. Film bellissimo. 1963, il 18 dicembre, nasceva Brad Pitt. Brad Pitt, attore statunitense, intervista col vampiro, di cui ricordiamo... Seven. Oppure... E anche Fight Club. Ah, che pellicole indimenticabili. Che bel Fiolin. Andiamo a concludere e ringraziamo la redazione per la segnalazione. Nasceva nel 1980, giovanissima, Cristina Aguilera. Però, redazione, questa non è rock. No, ma non è comunque una gran bella topona. Mi sono lasciato andare. Si è lasciato un po' andare. Sulle topone si lascia sempre andare. Cancelliamo questo topona. Cancelliamo, grazie. Cancelliamo topona. Lasciamo una gran bella. Grazie. Yeah. commerciale Duse Giant Center vi augura buoni acquisti e vi ricorda che nel reparto bambini troverete Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere le richieste dei vostri bambini, accorrete numerosi. Vieni, su, vieni. Dai qui, bella bambina, vieni, dimmi tutto. Beh, aspetta. Beh, a quell'età non hanno ancora visto un herpes. D'accordo che c'è il pus. Mano i Tesla di Love Song, un mare è un buon modo per chiudere una canzone così d'amore. 7:54 minuti primi e la mia sedia cigola. Si sente? Benvenuti alla colazione più rock dell'universo. Inutile cambiare stazione radiofonica, solo noi abbiamo il trattamento, quello bello preciso, per svegliarvi alla mattina. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. Abbiamo un calendario fresco fresco di stampa che si chiama Calendario 2008, l'anno della svolta. Come fare per averlo? Richiederlo ad ariel@radiorockfm.com. È l'unico modo per poter sperare di averlo. Christmas time is here again. Come d'altra parte, questa trasmissione è l'unica con i Beatles che vi cantano le canzoni di Natale. Christmas time is here again. Non perdiamo di vista l'obiettivo, eh? Buon Natale però, rock! Vi crea problemi? C'è qualcosa che non va? Lamentatevi! Siamo qui per quello. Boston Smoking. Vi ricordo anche il SMS 335 100 7777. Smoking, smoking, leaving the night, just came out talking. Smoking. Mazza che figata sto programma, raga!